Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Tornano i tifosi negli stadi per le partite di Serie A. Massimo 1.000 persone sugli spalti, mascherine obbligatorie in entrata e in uscita, distanziamento assicurato tra le sedute. Lo ha stabilito il governo dopo la decisione di alcune regioni, Emilia-Romagna prima, seguita poi da Veneto e Lombardia, di riaprire al pubblico. Una sperimentazione per le prossime aperture, ha detto il ministro dello sport. L'obiettivo è definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti per tutti gli sport. Sono saliti a 14 positivi al Covid-19 tesserati per il Genoa, tra i membri dello staff e ben 11 calciatori, compresi l'assessore Mattia Perin. Il portiere rossoblu è stato il primo a risultare positivo al tampone alla vigilia di Napoli-Genoa, quando già non si era allenato ed era restato a casa perché leggermente febbricitante. Ma da lì è stato l'inizio di giornata dir poco complicate, la decisione di rinviare al giorno seguente la partenza per Napoli. Dopo però è andata pure peggio, ritorna a Genova e la decisione di sottoporre nuovamente tutti i tesserati a un tampone, anche perché nel frattempo un membro dello staff riportava lievi sintomi, da qui la scoperta delle 14 positività complessive al Covid-19, tutti in isolamento, anche i giocatori risultati negativi al test e nessun allenamento in programma. Vi do subito il numero perché ho bisogno di un grande sussidio in questa trasmissione. Chi può vedermi in video capirà esattamente qual è il periglioso tema in cui mi incammino faticando e zoppicando questa mattina. Alessandro Chiappini manda in onda dallo stadio di San Siro, mentre Pietro Dalla Corte è sempre immobilizzato nello studio via Monterosa. Poi c'è Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che mi supportano in una per me difficilissima puntata in cui dovrò parlare di calcio. È obbligatorio che parli di calcio perché non posso fare a meno di analizzare quanto stia cambiando quello che sembrava il rituale collettivo, il collante che coalizzava comunque gli italiani in un'unica grande condivisa passione, anche se con diversi punti di vista, che era quella del calcio vissuto, del calcio visceralmente condiviso, non soltanto del calcio come è stata in questa ultima stagione, visto in televisione, con il pubblico virtuale, con le bandierine finte elettroniche che sventolavano. Alcuni passi avanti sono stati fatti nell'idea generale, istituzionale, insomma, di scontentare il meno possibile le persone, perché già ci sono demoti di piazza capitanati da illustri intellettuali come Vittorio Sgarbi, come altri, che dicono basta, ridateci la vita, cos'è questa stupidaggine, le mascherine, il Covid sono tutte cazzate, dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Gradualmente, per quanto riguarda il calcio, stanno cominciando lentamente a fare quello che hanno sempre fatto alcuni italiani, perché la normativa da questa settimana prescrive soltanto 1.000 fortunati a stadio. Quindi ci sarà comunque una parvenza umana nelle tante bandierine elettroniche, ma sarà sparpagliata in immensi spazi. 1.000 disperati in uno spazio che ne tiene decine di migliaia staranno lì a urlicchiare con la mascherina davanti, a sperare che il loro vicino di 6-7 fila avanti possa sentirli, ascoltarli, oltraggiarli, ostacolarli, condividerli, via dicendo. La domanda che mi pongo, e la prima domanda a cui dovranno rispondere gli esperti che mi accompagnano, è: con quale criterio vengono scelti 1.000 fortunati? C'è una lotteria? C'è una lista d'attesa? Sono quelli che sono stati buoni nella vita, che hanno fatto dei fioretti, che hanno fatto attraversare le vecchiette? E sono quelli che hanno un particolare bisogno emotivo di vedere la partita da vicino? Sono 1.000 raccomandati schifosi, figli, parenti, gli zii, nipoti, nonni, gli arcivescovi, le persone che possono andarlo a vedere di persona? È realmente un privilegio andare a vedere la partita? Secondo punto, non certo indifferente, che devo comunque toccare e lambire, è quello dei giocatori. I giocatori di calcio comunque sono persone che hanno un'attività promiscua, promiscua, perché giocando a calcio si sta vicini, non si può mantenere un metro di distanza. Provate, io non capisco nulla di questo sport come di tante altre cose, ma a un metro di distanza è difficile fare una partita di calcio. Abbiamo visto nella partita Napoli-Genoa due giocatori che hanno litigato, poi alla fine, da profano, quello che vedo io, si sono baciati in bocca, lingua in bocca. Ora, essendoci questo problemino di focolai che esplodono all'interno di alcune squadre di calcio, qualcuno dice: ma se i giocatori cominciano a baciarsi sulla bocca, succede un casino e i giocatori saranno tutti messi in isolamento, in quarantena, quindi entreranno le riserve. Quindi che campionato sarà? Che partite di calcio sono? È tutta un'altra cosa, una realtà parallela. È come l'automobile che cambi tutti i pezzi, o la nave di Teseo che cambi tutti i pezzi, ma è sempre la stessa. Perché? Perché le squadre saranno fatte solo di riserve, le partite saranno fatte solo con pubblico virtuale, e quindi diventerà un'altra cosa, o magari la stessa cosa, e tutti saranno contenti. 800240024, Ivan Zazzaroni, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Non preoccuparti, perché non stai parlando di calcio, stai parlando di altro, stai parlando. Effetti, no, per fortuna, ho chiamato te, chiamo il direttore del Corriere dello Sport, che oltre a essere un caro collega, un amico. Mi faccio delle domande. Mi faccio delle domande. Siccome è un fatto, oltre all'aspetto sportivo, di analisi sociale, che a me interessa molto, molto importante, il rapporto fra l'italiano medio e il calcio, vorrei capire da te, con queste, noi ci siamo sentiti qualche mese fa, ti ricordi, con gli stadi virtuali, con il pubblico virtuale, e su questo mi hai dato delle interessanti punti di vista che a me mancavano. Vorrei capire adesso questa nuova fase. Il terrore che i giocatori si contaminino fra di loro. È possibile vedere dei giocatori di una squadra che non condividano spogliatoi, docce, impeto nel campo da gioco, e cominceranno dei problemi. Seconda cosa, che è quella che più mi sta a cuore, come vengono scelti questi 1000 privilegiati che entrano negli stadi? Tu lo sai? Sì, però direi che è un elemento proprio marginale questo, secondo me. Sono o sponsor o frequentatori di Skybox, che sono comunque a pagamento, o amici degli amici. Quindi raccomandati, quindi sono praticamente. Ma sì, ma c'è una selezione, sai, 1000 non è che siano tantissimi, effettivamente. O ex o abbonati. Ma sinceramente credo che sia più che altro in gran parte per accontentare gli sponsor che sono mancanti. Cioè, in questo momento in cui non hai la biglietteria, in cui non hai il marketing, in cui ti mancano un sacco di cose, perché evidentemente il virus ti ha sottratto tutti questi elementi, e soprattutto ti manca il pubblico, questo è l'aspetto fondamentale. Vai, quindi è come le comparse negli studi televisivi, come i vecchietti che vanno da Vespa, sono sempre gli stessi. Sì. Solo qualcuno paga, qualcun altro no, però sì, è una selezione che viene fatta in maniera diversa da uno stadio all'altro, ma mediamente sono persone che conoscono, o dirigenti o altre cose del genere. Cioè non c'è una selezione seria, approfondita, su uno sto bravo, sono stato un fioretto o altre cose del genere. Però non è questo il problema. Il problema di base è un altro, secondo me. Cioè, quello che non viene capito è che il calcio ha le stesse esigenze che hanno i ristoratori o al cinema, al teatro, quelli che hanno bisogno della biglietteria, con numeri diversi. Cioè, certo. Quando hai diritti televisivi, ma le tue entrate poi sono in gran parte dipendono dagli sponsor, che in questo momento stanno scappando perché vedono appunto un calcio con meno appeal, con meno appeal. E dall'altra parte non hai i famosi 60.000 che ti pagano, o gli abbonati che ti pagano l'abbonamento, 60.000 che ti pagano il biglietto, è chiaro che vai in ulteriore difficoltà. Un calcio che era già in difficoltà prima del lockdown, sicuro che adesso con centinaia di milioni di euro bruciati. Quindi la richiesta che viene fatta dalle società è proprio quella che fa il ristoratore: apritemi il ristorante, datemi la possibilità di mettere i tavoli a un metro, li faccio entrare con le mascherine, li provo la febbre. È una vita irregolare, tutto irregolare, e irregolare anche il calcio da questo punto di vista. Quindi a questo punto vediamo le possibili soluzioni. Il primo problema è il problema dello sbigliettamento. Chiaramente tutto l'aspetto di sostegno economico del calcio va a sgretolarsi, perché un calcio senza pubblico non è più un grande rituale, diventa una partita, allora uno gioca con un videogame di ultima generazione e si diverte anche di più. Seconda cosa, c'è un indubbio problema sanitario. Entrare e uscire dallo stadio, l'aspetto, il contatto fisico che indubbiamente, immancabilmente c'è sempre stato e ci sarebbe comunque fra tifosi, creerebbe dei grandi problemi sanitari. Quindi è un braccio di ferro che vedo di difficilissima soluzione. Tu come la vedi? condizioni io credo che invece sarebbe una maggiore disciplina, cioè qui stiamo parlando del 25% della capienza nello stadio, non di 25.000 persone, quindi il 25% sono stadi da 30.000, fai il 25, io non sono fortissimo in matematica, ma non arrivi a 7-8.000, se hai lo stadio da 60.000, il 25% sono 15.000, ecco. Ci sono le condizioni A per farli entrare, quindi con file molto disciplinate, B per tenerli anche a distanza. Tutto questo è possibile, non è che si abbracciano, si baciano. Ti volevo anche rassicurare sul fatto che la lingua non l'ha messa quei calciatori, cioè si sono avvicinati. Non so, ho visto la foto, forse la prospettiva mi ha ingannato, non lo so. Sì, non sono baciati, ma neanche una puntina, hai capito di dire? Ovvio, si sono avvicinati, è chiaro che lì c'è un possibile, un potenziale contagio, se uno dei due è positivo, però quando entrano in campo sono tutti negativizzati, cioè hanno fatto i tamponi o il giorno prima, quindi succedono anche queste cose, purtroppo magari è in fase embrionale il virus o il contagio, per cui magari questo dà il tampone, dà un riscontro negativo e in realtà dopo un giorno l'elemento è positivo. Noi stiamo affrontando tutte queste cose come se fossimo dei medici, abbiamo passato diverse stagioni dove eravamo dei commercialisti, adesso siamo diventati nei giornali sportivi una specie di specialisti, virologi. Si vede che si stanno specializzando, già vedo le prime agenzie con infettivologi, virologi che stanno dicendo la loro sul calcio e sulle possibili profilassi preventive per i calciatori, perché è un discorso particolare, sono tanti e stanno comunque a contatto. Sì, io onestamente non ci sto capendo una mazza, te lo dico sinceramente, cioè, non dico che mi voglio arrendere. questo non mi rassicura. È un discorso, se vuoi l'apertura degli stadi può sembrare un discorso impopolare, però se uno lo spiega semplicemente con quello che ti ho detto, cioè sono le stesse esigenze economiche o di passione, di continuità o di sopravvivenza alla crisi che hanno tutti i settori del commercio o dell'industria, questa è l'industria, per cui è evidente che si vengono a mancare i soldi. Faccio un esempio molto pratico: in Germania, che era fino all'altro giorno l'ossigeno del calcio mondiale, quindi anche il calcio mercato è stato molto ridotto, notevolmente ridotto, una società come il Bayern, che è una società virtuosa, 19 bilanci sugli ultimi 20 in positivo, una cosa incredibile, perde ogni volta che fa una partita in casa senza pubblico, perde ai 4 ai 6 milioni. Tu moltiplicali per le partite, capisci che diventa un buco non indifferente, 4 a 6 milioni fra sponsor, fra pubblico e tutto il resto. Quindi il rischio è che il calcio, come tradizionalmente è stato inteso dalle persone appassionate, rischia o diventa un'altra cosa e ci si accontenta del palliativo, di un altro tipo di calcio, come sarà detto l'altra volta, o se no, naturalmente, il risultato che sarà una crisi enorme anche nel settore dell'intrattenimento. Quindi se togli il Panem e togli i Circenses, la gestione comunque della serenità nazionale si fa molto difficile. Sentiamo Andrea, primo ascoltatore, 800240024. Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ciò che vedo e che, di cui ho l'impressione è che un po' tutto sia velato da una forma alquanto ipocrita. È come dice mia nonna, che le donne di passo scuro si coprono la testa e si sporno il culo. Perché? Andiamo a stupire, insomma, in forma dilettale, però per chiarire il concetto, che ci andiamo a stupire di contagi tra i giocatori, piuttosto che, come ha detto lei prima, fanno una vita promiscua, ma come tutti noi del resto. È come quando sono state aperte le discoteche e poi ci si è stupito dei contagi, ma sono forme inevitabili dal momento che abbiamo a che fare con delle particelle microscopiche invisibili che girano nell'aria. Capisco però che dietro, alla fine, torniamo sempre alla pecunia, c'è sempre il discorso del denaro, che come nelle discoteche... Sì, che però, permetta Andrea, non è che il denaro va visto come lo sterco del diavolo, in questo caso è il carburante perché poi le persone possano usufruire anche di questo aspetto che fa parte della nostra vita. Il calcio può piacere o non può non piacere, può essere seguito o non seguito, comunque è una delle ragioni principali del, che occupano il tempo libero di una gran parte di italiani, che appassionano gli italiani, che danno anche un senso all'esistenza. Non è che sia si deve mantenere, perché si deve mantenere attraverso un mercato che lo sostenga, perché è costoso. Un calcio di livello, secondo me, richiede giocatori di livello, richiede un mercato di alto livello. Insomma, se gli italiani vogliono mantenere la loro abitudine di avere il calcio come uno dei fluidi che gli permettono di vivere le asprezze dell'esistenza, devono fare i conti anche con questa realtà, perché due sono le soluzioni: o si segue la strada del fatalismo, non ce ne importa niente, rientra nella base statistica delle persone che dovranno morire, quindi riprendiamo tutto come prima, c'è chi lo dice, o ci si tiene ben prudentemente attenti, e allora i risultati sono questa incertezza in cui ci muoviamo. Stefania, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che sono veramente stufa di sentire questa storia del calcio, perché si tratta solo di una questione economica, e mi domando, vogliamo fare come in Svezia, dove purtroppo vive mio figlio, di cui pur ho informazioni di primissima mano, che hanno fatto morire un sacco di gente per salvare l'economia e non l'hanno salvata, perché in questo momento stanno peggio di noi? Allora, la vogliamo finire di mettere l'economia e i soldi prima della vita? Seconda cosa, non vedo perché la passione per il calcio deve essere superiore alla passione per l'opera, per esempio. Io sono appassionatissima di musica lirica, in questo periodo a teatro non ci posso andare, non ci vado, mi sento la musica in internet. Non vedo perché la mia passione deve essere meno importante. È solo per una questione di economia, perché è una questione di numeri. La lirica è un interesse nobile che però appassiona un numero più ristretto di persone. Il calcio è un grande divertimento e passione popolare e appassiona tantissime persone. Ma il discorso economico non va sempre visto, ripeto, come qualcosa da demonizzare. Se molti italiani vivono meglio la loro vita e sono felici perché esiste il calcio, tutto questo va sostenuto. E sul piatto della bilancia bisogna mettere un minor tasso di felicità e un maggior margine di rischio. È sempre una questione di bilanciamento. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Oggi stiamo parlando di quello che è un possibile futuro del calcio in Italia, sia dal punto di vista della fruizione, degli appassionati, sia dal punto di vista proprio della capacità di sostenersi economicamente, visto che gli stadi possono al momento contenere al massimo 1000 persone, sono poco più che dei figuranti, e visto che le partite sono messe a rischio da un possibile contagio, rischio di contagio anche tra giocatori. Ne stiamo parlando con Ivan Zazzaroni, che è direttore del Corriere dello Sport. Vorrei sentire qualche ascoltatore e poi commentare assieme. Voi avreste delle soluzioni, visto che gli italiani sono noti per poter discutere di tutti i problemi e essere esperti di tutto? È possibile trasformare il calcio in uno spettacolo accettabile dalle persone che hanno ancora la nostalgia delle vecchie belle partite con gli spalti in agitazione e in subbuglio, o altrimenti pensare che questa cosa non ci sarà più, farà parte di un passato, tornerà quando torneremo tutti tranquilli che non ci sarà più il coronavirus? Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Sì, volevo fare ascoltando la trasmissione. Sarebbe sempre importante parlare di un argomento quando se ne ha proprio veramente una conoscenza. Invece, quando ho sentito l'altro giorno un membro del comitato tecnico scientifico dire che il calcio tutto sommato non è una delle nostre priorità e ci sono molte altre priorità in Italia, questo è vero, però secondo me questa persona non conosce quali sono i numeri del calcio in Italia. Mi occupo di sport da 35 anni. Allora, i numeri del calcio sono i seguenti: 1.400.000 tesserati solo della Federcalcio. Lasciamo stare i giocatori che fanno le partite a 5 nei circoli privati, eccetera. 1.400.000 tesserati. 600.000 partite, 600.000 partite, questo significa 14.000 partite di calcio tutti i weekend, a partire dai bambini di 8 anni fino alla Juventus, fino alla Serie A. Questo è il quelle di calciotto, quelle cose tengono presente quando si tratta di fare investimenti nel mondo del calcio. Quindi non è secondario e non è una cosa di cui occuparsi fra mesi, è una cosa che riguarda milioni di persone, è un'industria enorme e chi dovrebbe occuparsene deve informarsi. Non sono dati che mi sono dati pubblici. Ecco Leonardo, adesso che ha dato i numeri, adesso che ha dato i numeri, mi dice il suo punto di vista, quale sarebbe la soluzione secondo lei? Se lei fosse il ministro plenipotenziario per il calcio italiano nel governo d'emergenza per il Covid, cosa farebbe da oggi a domani? Farei, prima di tutto mi chiuderei in una stanza per 3 giorni, mi informerei su quelli che sono i numeri veri e prima di dire che il calcio è una questione secondaria in Italia, una volta, ma lei starei attento a quello che dico, leggerei le carte federali che sicuramente questo ministero non conosce. Sì, ho capito, Leonardo, mi sta ripetendo la stessa cosa, mi scusi, vabbè, ho capito. Mi dispiace, ma questi sono i numeri. Ma io volevo una soluzione, vabbè Leonardo, arrivederci. Nicola, ho chiesto una soluzione, continua a dire i numeri, e i numeri sappiamo. Nicola, buongiorno. Sì, salve. Ascolti, vediamo se lei ha una soluzione in tasca, visto che i numeri l'abbiamo saputi. Del signore che ha risposto prima. Sì. Cioè, il calcio per me è una questione secondaria, perché se guardiamo i tesserati possono resistere lo stesso. I primi calci, i bambini che giocano, possono giocare benissimo a pallone. Non vedo perché dobbiamo avere come prima questione aprire gli stadi di Serie A. Perché come si possono aprire gli stadi? Allora si devono aprire i concerti, si devono aprire le opere, come diceva la signora prima. Tutti i concerti in Italia, guardiamo i concerti di Vasco Rossi, fanno migliaia e migliaia di milioni. Solo di biglietti? Non capisco migliaia perché. Insomma, tra tutti i concerti che ci sono vorrei vedere. Migliaia di milioni, usciamo fuori dal numero massimo dei cittadini del nostro paese. Comunque, vabbè, è chiaro il concetto. Lei dice perché solo il calcio? La mettiamo su un piano di equa distribuzione dei passatempi piacevoli. Sandro. Sì, buongiorno. Sì. Guardi, io credo che il calcio, a differenza dei concerti, che naturalmente non può Vasco Rossi fa 2.000 persone perché non avrebbe senso, ma il calcio è l'unica attività che ha gli stadi con i settori numerati, dove gli stadi hanno settori dappertutto. Già prima c'era un ingresso graduato, lento ormai, quindi con una riduzione, come si diceva, del 20%, si può cominciare col 15%, il 20%, l'uscita dallo stadio regolamentata sempre per settori. Ma non lo si fa per i calciatori, lo si fa per tutto, anche l'indotto, quello che posso vende fare le una domanda, Sandro, scusi, sì, una domanda. Sì, lei sì. È per una graduale riapertura con grande cautela, avanti con giudizio, però andare avanti. Esatto. Ecco, lei, fino ai 1.000 per stadio, ci ha risposto Ivan Zazzaroni, sono 1.000 persone conosciute, le chiami, sono sempre le stesse. Ma quando comincerebbe a entrare, non so, il 25%, con quale criterio si sceglie chi entra e chi rimane fuori, secondo lei? Beh, certo, quest'anno indubbiamente gli abbonamenti sono saltati, no? Perché la stagione è già cominciata, di solito la gente. Quindi quello è compito del marketing, cioè se farebbe online sicuramente vi dando le biglietterie, quindi biglietti ormai con i cellulari fai tutto il biglietto come cioè con l'aereo. I primi che riescono a iscriversi entrano, come si ma fa? Sì, con guardi, i comunque è una cosa volontaria, perché non è che col 25% anche è capace che vanno tutti, perché molti dice, io sento tanti, dice a me non mi interessa, voglio queste, però tante persone, guardi io le faccio un esempio, sono stato l'altro ieri, non voglio far nomi, però un centro commerciale di Roma famoso svedese che vende mobili, quindi ci siamo capiti. L'Ikea, ho capito. C'era la processione, si stava attaccati dentro, consideri sabato e domenica, invito chiunque ad andare, c'era la processione come appiccicati, quindi mi sembra che uno stadio invece offre caratteristiche dove si può stare distanziati. Ma forse vanno a fare la spesa all'IKEA perché non possono andare a vedere la partita, anche questo può essere. Vabbè, no, la domenica c'è sempre stato, non cambia niente, ho capito. Sì, apposta, allora, io parlo di Ivan Zazzaroni, ti ho fatto sentire allora, un po' di pubblico sì, non specializzato. Sì. Vediamo se riusciamo a tirar fuori un minimo comune di saggezza rispetto a quello che abbiamo sentito. Gianluca, il problema di base è che la gente pensa che quando si parla di industria del calcio sia fatta da 22 giocatori, un arbitro e i presidenti che rubano i soldi. Non è così. Cioè, è fatta di donne e uomini che lavorano. Parliamo di decine, di migliaia di posti di lavoro. Cioè, l'industria non è fatta così da un pallone che rotola. È fatta da magazzinieri, è fatta da giardinieri, è fatta da giornalisti, è fatto da cameraman, parliamo di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Quando si parla di industria, purtroppo il calcio ha questa sua, cosa vogliamo, questa sua antipatia di fondo, di base, no? Perché il calcio è lo sport popolare, non mi piace, mi piace, quindi i giocatori che prendono milioni. La signora che dice allora l'opera lirica deve essere sullo stesso piano. Tu conosci bene il teatro, il cinema, quindi ha ragione, anche questa è industria, anche questa sono posti di lavoro e non è soltanto intrattenimento. Quando si dice sopravvivenza di un mondo, è chiaro che fai entrare il 25% del pubblico non risolvi il problema, questo è evidente, sia chiaro, cioè non è che se io porto 10.000 persone, 8.000 persone, 8.000 biglietti ho risolto i problemi del calcio. È un tentativo di ripartenza, è un tentativo di sopravvivenza in attesa di tempi migliori. In questo momento stiamo tutti sopravvivendo a un tipo di vita che non ci piace. E ad io l'altro giorno vedevo in televisione un concerto con 40.000 persone, mi sembrava di essere entrato nel secondo millennio, non nel terzo. Mi sembrava talmente distante, una vita talmente persa, qualcosa che non spero che torni, ma oggi come oggi viviamo tutti in questa incertezza di base, nella quale troviamo nemici ed amici. Non è una priorità il calcio, me ne rendo perfettamente conto, sono priorità i commercianti, i ristoranti, i baristi, questo è evidente che è così, ma esiste anche questa realtà che purtroppo è legata al discorso del divertimento, dello spettacolo. L'elemento passionale è importante, ma forse si può andare avanti anche con gli stadi vuoti per altri due mesi, ma fino a quando poi? Altrimenti ci cambia la vita, ci cambia il mondo. Io quello che volevo dirti prima, ho fatto il paragone con il ristorante, cioè è un'industria fatta di persone, ci sono gli infermieri, ripeto, i magazzinieri, gli steward, le maschere all'ingresso, questa gente prende i soldi dal calcio, poi è chiaro che sono i giocatori che ne prendono molti di più e vivono con nell'immaginario collettivo con le starlette, le vedette, come gli shake. Ci fa capire Ivan Zazzaroni che non fermiamoci a una lettura superficiale, soprattutto antagonista, cioè il calcio è qualcosa di popolare, di brutale, girano i soldi e via dicendo, allora anche il resto. No, dietro il calcio comunque c'è un indotto talmente potente, talmente grosso, talmente importante che forse un occhio di attenzione va data. Ci fermiamo ancora un istante, poi riprendo proprio con Ivan Zazzaroni. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Melog. Molto velocemente, Maria, il suo punto di vista rispetto a quello che stiamo dicendo, l'importanza di mantenere comunque il calcio come un elemento anche importante dell'economia nazionale. Importante, oltre ad agganciarmi a quello che stava dicendo il signore prima, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Sì, l'indotto che c'è intorno, che comunque sono veramente tante, tantissime persone, comunque anche famiglie, padri di famiglia che comunque lavorano, anche per i ragazzi, perché già sappiamo la scuola come sta andando, gli togliamo anche lo sport, non facciamo fare gli sport, che cosa gli rimane? Il fatto anche, non è neanche questo da poco. Il fatto qual è la sua soluzione? Maria, la sua soluzione qual è? Deve comunque andare avanti, fare tutti i controlli, essere prudenti con tutti i controlli che stanno facendo, perché comunque li stanno facendo, e quindi comunque continuare gli stadi, magari cominciando con poco, però comunque in qualche modo il calcio deve continuare assolutamente. Luigi, buongiorno, veloce anche lei, se può. Buongiorno. Niente, volevo dire che sono d'accordo con la signora che ha appena parlato. Io lavoro nel mondo del calcio, so quanto sia importante il settore per la società e credo che stia facendo di tutto perché le cose possano ripartire, andare avanti, e ha dato anche un segnale quando era luglio di poter andare avanti, e la gente ha voglia anche di settori che volessero reagire, e non per i cacciatori miliardari, ma per tutto un movimento che poi racchiude persone che lavorano, interessi, anche amicizie, weekend, un sacco di appassionati che comunque seguono il calcio, e non parlo del calcio, comunque le attività all'aperto credo che siano che sia possibile comunque gestirle in maniera percentuale rispetto alla capienza della struttura che li contiene, e io vorrei che riaprissero anche i teatri, i cinema, chiaramente con delle precauzioni che possono essere oggettive. E comunque credo che un conto sia il contagio, un conto siano gli ammalati. È molto chiaro. Allora, riprendiamo con Ivan Zazzaroni. Un altro problema che mi sembra in questo momento molto attuale è anche il rapporto fra le società di calcio e la televisione. In questo punto la televisione si trova naturalmente depauperata di una parte importante anche del proprio spettacolo. In questo ci sono delle soluzioni. Vediamo che perso per perso difficilmente, ipotizzo, si possa tornare a frequentare gli stadi come prima. Comunque sia, lo spettacolo televisivo del calcio deve continuare. Ecco, su questo cosa si sta muovendo? Muovendo dei fondi, dei private banking, per cercare di parare il contraccolpo, dal momento che le televisioni hanno vissuto e subiscono la crisi del lockdown. Si pensa soltanto che Sky ha 5.000 dipendenti, molti dei quali in cassa integrazione. Per cui è evidente che tutto questo appartiene al discorso che ti facevo prima. Ho detto Sky, ma potrei dire DAZN o altri, con numeri inferiori. Il rapporto adesso qual è? Quello di cercare, ecco, volevo dirti questo soprattutto, poi velocemente. Il problema calcio è un problema fondamentale, ma attenzione agli altri sport che vivono al chiuso, la pallavolo, il basket, cioè questi non hanno nemmeno i diritti televisivi, per cui la mancanza del ticketing è veramente esiziale, cioè possono veramente rischiare di saltare degli impianti, delle società, e quindi è un problema che viene avvertito come nel cinema, come nel teatro, come l'opera, io parlavo prima, da chi vive, chi gioca, chi pratica lo sport al chiuso, perché è evidente che è più facile contrarre il contagio al chiuso che non all'aperto. Le televisioni adesso stanno cercando in qualche modo di capire come muoversi, certamente faranno offerte in futuro inferiori, perché la PIL del calcio senza pubblico è inferiore, perché la gente ha avuto una disaffezione durante il lockdown, perché non si è più, non vide più con serenità la vita, figurati tutto ciò che è vicino, tipo lo sport piuttosto che altre cose. Quindi stanno tentando di entrare questi private bank, garantire dei soldi e vedere di avere un atteggiamento manageriale e lavorare loro in funzione appunto di una copertura di questo buco. Però è una crisi continua. Adesso Ivan, faccio anche te la domanda che ho fatto agli ascoltatori, non ti voglio mettere in imbarazzo, ma metti caso che per assurdo diventi tu per un giorno il plenipotenziario che può decidere in questo settore, visto che hai una competenza indubbia in questo campo, cosa faresti? Da dove cominceresti? Beh, io intanto andrei al governo e dire che il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, deve parlare esclusivamente a livello istituzionale, perché questi messaggi continui negativi nei confronti della ripresa creano ancora più allarmismo e terrorismo. Prima cosa. Secondariamente tenterei appunto di aprire a una percentuale accettabile per vedere di pubblico e vedere di nascosto l'effetto che fa, perché non ho altre soluzioni. Cioè, le fonti, cioè, di fare ricavo, dei passi prudenti, come si è fatto con la scuola, perché prudenti, la scuola in questi giorni capiremo se a scuola abbiamo rischiato o non abbiamo rischiato, lo capiremo in questi giorni. La stessa cosa per il calcio, per lo sport, cominciare piano piano, fermarsi se c'è lo stop, però andando avanti. Ma stiamo procedendo a vista, Gianluca, ma anche tu procedi a vista. Ah, certo. Quando vai al supermercato devi fare la fila, quando vai in un ristorante ti trovano la fetta, queste cose non capitavano neanche ad altri fino a pochi mesi fa, è una vita irregolare, per cui purtroppo noi italiani facciamo una fatica porca ad accettare una realtà nuova. Io spero che questa non sia la nostra realtà definitiva, questo è evidente, però a oggi non vedo la fine del tunnel, ogni giorno c'è i 1.400, i 1.500, i 10 morti, poi al di fuori dell'Italia anche peggio, per cui spero che questa non sia la nostra vita in futuro. Sarà un passaggio da gestire in un arco di tempo che non è certo quello che ci immaginavamo qualche mese fa. Avremo ancora avanti un po' di tempo. A settembre, in autunno arriverà il vaccino. Adesso sappiamo, è in autunno il vaccino, forse due. Esatto. Il vaccino, poi tutte le prove, cioè. Va bene, abbiamo Mauro, mi fa una domanda, te la riassumo velocemente in un secondo. Dice: questo sarebbe anche il momento, una vecchia questione, di ridare vita agli sport minori, potrebbero avere maggiore spazio. Mi sembra ancora più difficile, però, visto che hanno meno risorse di quelle che aveva il calcio. Velocissima la risposta. Prima. È quello che dicevo prima, nel senso che mentre il calcio ha 1,4 miliardi all'anno da dividi, fallo di Serie A naturalmente, gli altri sport non ce l'hanno, gli altri sport vivono di sponsor che stanno allontanando perché stanno in crisi pure loro, e di biglietteria. Quindi il rischio è proprio che gli sport minori in questo momento siano i primi a tirare le cuoia in questo difficile momento. Grazie Ivan Zazzaroni, grazie Ivan Zazzaroni, grazie a quelli che hanno partecipato e ci sentiamo domani. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.